Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vi anticipo che i temi di oggi saranno in qualche modo anche temi di domani, ossia domani c'è la due giorni biennale del Centro Studi Confindustria. Noi saremo in diretta da Parma, dove si terrà un appuntamento molto importante, anche perché il Centro Studi Confindustria dà sempre indicazioni, e fra poco ce le racconterà il direttore Luca Paolazzi, su scenari, ma soprattutto dà anche indicazioni, oltre che analisi, su quello che dovrebbe fare il nostro paese dal punto di vista economico, non solo proiezioni, modello OCSE, diciamo, di dove andrà il PIL e dove andrà il deficit. E quindi inizieremo oggi a fare un primo approfondimento per poi sentire domani le varie reazioni. In una giornata di nuovo debole per la borsa, e voglio dire debole perché se no inflazioniamo gli aggettivi, -2,50%, l'indice è sotto ampiamente i 17.000 punti, a 16.800 punti, si è mangiato tutto il recupero parziale e di queste ultime settimane, mi riferisco al FTSE MIB, laddove invece Parigi perde l'1,15%, Francoforte l'1%, Londra lo 0,50%. Se andiamo, lo dico così per informazione, a guardare il grafico storico dell'indice, sostanzialmente siamo tornati non ai livelli peggiori, cioè 11 febbraio di quest'anno, quando era sceso a 16.000 punti e si intravedeva appunto la soglia anche dei e poi scesa a 15.000 punti in alcuni momenti, ma sostanzialmente siamo tornati indietro di un mese e mezzo scarso. Quindi tutto il recupero che c'è stato in questo mese e mezzo, pure un recupero altalenante. E che cos'è che trascina la borsa al ribasso e Milano più delle altre? Beh, è inutile dirlo, di nuovo malissimo tutte le banche. Il Monte dei Paschi perde 7,31% e quindi è a 43 centesimi di euro. Il Banco Popolare perde il 7% e a 4,41 euro. UbiBanca perde il 6,34%, UniCredit il 6%, Popolare Emilia Romagna il 5,70%, Mediobanca il 5,20%, Pop Milano il 4% di calo. Come spesso avviene ormai da intere sedute, cala un po' meno, anche se il calo è pesante anche per lei, Intesa San Paolo -3,70%, Mediolanum -2,40%, Generali -2,30%. Non c'è sostanzialmente una banca positiva oggi. Il miglior titolo è ST Microelectronics +4% e A2A +1%. Di banche parleremo non solo per l'andamento di borsa, ma anche e soprattutto perché ieri, come sapete, insomma, è diventato legge il decreto banche, che contiene la riforma del credito cooperativo, la garanzia dello Stato sulle sofferenze, già richiesta nel frattempo dalla Popolare di Bari per la cessione di un pacchetto di crediti deteriorati da 800 milioni di euro, e poi le favorire l'aggregazione nel mondo delle BCC. Parleremo con Laura una collega del Sole 24 Ore, Laura Serafini, anche di questo e delle modifiche entrate nel testo. Detto ciò, l'atteggiamento nei confronti delle nostre banche e soprattutto delle sofferenze che le zavorno è ancora molto molto negativo da parte del mercato. Euro su dollaro a quota 1,14, quasi 1,1390, 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, Allora, vedo vari messaggi, dati sempre più negativi. No, guardate che non è che diciamo che c'è la ripresa, abbiamo parlato di ripresa debole, timida, modesta, non so che altri aggettivi utilizzare. È una ripresa perché c'è il segno più davanti, l'abbiamo spiegato in tutti i modi possibili, che sia modesta, che sia sotto le attese, che sia insufficiente soprattutto, perché con questi tassi di ripresa hai voglia a recuperare i livelli pre-crisi, insomma l'abbiamo detto in tutti i modi possibili, lo diremo anche in lingua straniera se qualcuno ancora non l'ha capito, però dopodiché si chiama ripresa perché da un punto di vista terminologico quando hai il segno più sei in crescita, quando hai il segno meno sei in calo, insomma non possiamo cambiare anche questo. Io capisco l'avversione a Renzi, ma insomma, non si può non dire che c'è una ripresa economica in atto se c'è il segno più, che poi sia stradebole. Vabbè, e parleremo oltre che di questo, della riforma delle banche, anche della banda larga, perché così saranno contenti quelli che vogliono ascoltare il Premier Matteo Renzi, perché oggi il Premier ha presentato assieme ad Enel il piano per la posa della fibra ottica in 224 città italiane, un investimento complessivo di 2 miliardi e mezzo, raggiungerà 7 milioni e mezzo di abitazioni. Si tratta delle zone in 224 città, si tratta delle zone A e B, e qui va spiegata, poi ne parleremo ancora in maniera più diffusa, e cioè sono le zone in cui gli operatori possono farsi concorrenza perché il mercato è remunerativo. Cosa vuol dire? Sono le zone a maggiore densità abitativa e dove c'è un certo potere utilizzo della banda. È ovvio che portare la banda larga nel casale in campagna, oltre che non avere concorrenza, non è neanche remunerativo. Infatti si pensa per altre aree del paese, non solo alla fibra, ma si pensa a altre forme di connessione che ti permettono di navigare con una discreta velocità sulla rete. Qui stiamo parlando solo di fibra, che è una cosa specifica per, ripeto, le zone ad alta intensità e a grande consumo, dove ti puoi fare concorrenza e guadagni sui margini. Come fa a lei a pronunciare la parola ripresa? Lei dovrebbe essere arrestato, io addirittura arrestato, perché dico ripresa, il regista è d'accordo. Viva la fibra, vabbè, dai, andiamo avanti con il resto. Ha ragione invece chi dice certo che la ripresa inizia dal punto più basso. Beh, non ci sono dubbi, insomma. Le discese e le risalite, cantava San Nicolò Mario Battisti, no? Allora, la risalita parte dal punto più basso, la discesa, ma qui stiamo andando un po' sui sofismi. Il problema è che questo tipo di risalita e di ripresa non è adeguata, non è sufficiente, è ancora modesta. Allora, e ce lo conferma l'Istat oggi, che diffonde il dato sul PIL pro capite in Italia. E scopriamo, tra virgolette, nel rapporto Noi Italia, che il PIL pro capite del Mezzogiorno è quasi la metà di quello del Nord, Ovest e anche del Nord-Est. Per la precisione, abbiamo 30.821 euro pro capite come PIL prodotto per ogni abitante del Nord-Ovest, 29.700 al Nord-Est. Invece la media nazionale è di 25.500 euro, al sud si scende a 16.700 euro di PIL pro capite prodotto. E comunque è la stima che è riferita al 2014 è la più bassa da 10 anni. E sempre nel 2014 l'Istat fa sapere che nel rapporto Noi Italia che è rimasta stabile la povertà sia relativa che assoluta, però ormai la povertà relativa coinvolge circa un decimo delle famiglie, il 10%, quella assoluta il 5,7%. Su questi dati si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Emissione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Salvatore Padula. Oggi è arrivata una raffica di dati statistici contenuti nel rapporto Istat Noi Italia. Ci sono davvero molti indicatori che in qualche modo confermano i tanti problemi di cui spesso parliamo anche nei nostri 100 secondi. Il lavoro, per esempio, dove oltre a un'alta disoccupazione anche giovanile restano forti squilibri di generi, restano ampi divari anche tra il nord e il sud del paese, divari che poi si riflettono sulla distribuzione della ricchezza, con il reddito pro capite del sud che è praticamente la metà di quello del nord. Ma tra i tanti dati ce n'è uno che forse colpisce più di altri, è un dato demografico ma che ha anche importanti effetti, per così dire, economici. La novità è che nel 2015, per la prima volta negli ultimi 10 anni, è leggermente diminuita la speranza di vita alla nascita, che ora è 80,1 anni per gli uomini e 84,7 anni per le donne. Non si tratta ovviamente di una bella notizia, perché significa che si vive mediamente qualche mese in meno, però con un po' di ironia una consolazione la si può trovare. L'andamento della speranza di vita, come sappiamo, viene utilizzato per adeguare l'età della pensione e finora questi adeguamenti sono stati sempre in aumento, cioè si vive più a lungo ma si va in pensione più tardi. Bene, se la speranza di vita diminuisce, smetterà almeno di allontanarsi sempre più il momento della pensione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Allora, vabbè, al di là, io non so, sarà la primavera. Grazie per tutti i messaggi, viva la fibra. Si lavora, si fatica per il pane, per la fibra. Insomma, non ce la posso fare. Poi, allora, la ripresa, tutta questa polemica sulla ripresa, c'è la ripresa, non è una ripresa. Servirebbero iniezioni di fiducia, tecnicamente una ripresa ma ci vorrà una vita. Sì, è vero, è chiaro. Cosa io conduco utilizzando 60 parole, insomma, ognuno fa quello che può. 60 parole in tutto come termini, perché parlo un po' più lungo come termini, dice, va bene. Allora, no, alcuni vorrebbero, è meglio una piccola risalita che una grossa discesa, e anche qui insomma va bene, catalano. Allora, è il momento di Luca Paolazzi, non posso più, ce l'ho già il collegamento Luca Paolazzi, eccolo lì, direttore del Centro Studi Confindustria. Domani si apre a 2 giorni, domani pomeriggio a Parma e poi sabato mattina, a 2 giorni di Confindustria, imprenditori, i geni, inteso come la genetica dello sviluppo, ma chiaramente c'è anche il gioco di parole. Sarà l'ultimo intervento del presidente uscente Giorgio Squinzi, vi sarà il sottosegretario presidente del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti, anche il premio Nobel dell'economia Robert Shiller interverrà, e poi tanti altri ospiti. Luca Paolazzi, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24 e a te in particolare. Grazie Luca, insomma, ho scatenato così la voglia di WhatsApp e di SMS sul tema della ripresa. Vabbè, allora, giro anche a te la domanda. Tecnicamente è una ripresa perché c'è un segno più davanti, non iniziamo a polemizzare su tutto, ve lo prego. Vi prego, ho capito che c'è chi scrive che la banda larga è il governo, va bene, apprezziamo anche questa battuta, possiamo andare avanti. Allora, tecnicamente è una ripresa molto debole. Voi vi concentrerete come filo rosso sui geni dello sviluppo, cioè che cosa permette lo sviluppo di un paese, e come verrà declinato questo, Luca? Sulla ripresa è un termine che noi al Centro Studi abbiamo abolito. La ragione è che tecnicamente è sbagliato. La ripresa è un periodo molto breve, normalmente esatto, un anno e mezzo, durante il quale si recupera, si riprende appunto quello che si è perso durante la fase negativa del ciclo, durante la recessione. Non ci metteremo un anno e mezzo a recuperare quello, ma neanche tre. E quindi è sbagliato parlare di ripresa tecnicamente, è scorretta politicamente, perché le persone che sentono parlare di ripresa ritengono che di essere già tornati o rapidamente tornare a livello precedente, come stavano prima, certo. Cioè, ai posti di lavoro che avevano prima, alla redditività di imprese che c'era prima, alla produttività del lavoro che c'era prima e così via. E questo non sta avvenendo e quindi suona quasi come una presa in giro, se non proprio. Infatti sai che stanno scrivendo... Dunque noi non usiamo questo termine, noi parliamo di risalita, di ripartenza, oh, vedi di che recupero. Battisti c'entrava quindi, prima abbiamo usato Battisti e le discese e le risalite e Battisti c'entrava, sì, qualcuno scrive che è una ripresa per il che, vabbè, e il tema è quello che diceva Paolazzi, cioè è prendere in giro, qualcuno usa un altro termine, o riprendere in giro, parliamo di risalita dopo una discesa e su questo non ci sono dubbi, sia della discesa che del tentativo di risalita. Confermerete anche le previsioni diffuse, Luca? Noi non parliamo di previsioni domani, per la prima volta nella sua storia ultracentenaria Confindustria si occupa delle persone che fanno gli imprenditori, non delle imprese ma delle persone. E questo è importante in generale nel paese, cominciare a occuparsi delle persone, non delle categorie, i lavoratori, eccetera, ma proprio le persone. E le persone che stanno dietro le imprese, che danno vita alle imprese, si chiamano imprenditori. Senza imprenditori non ci sono imprese, senza imprese non c'è PIL. Questo diciamo è il messaggio molto elementare, ma diciamo non è un caso che ce ne occupiamo oggi. Perché se è vero sempre che gli imprenditori sono dietro allo sviluppo economico e civile dei paesi fin dalla rivoluzione industriale di fine Settecento, cominciata in Inghilterra e poi diffusa in via via in vari paesi, da noi è arrivata un secolo dopo fondamentalmente, e se è vero diciamo che sono determinanti per la performance economica di un paese, e tuttavia diciamo oggi sono cruciali più che mai, perché oggi è in corso un cambiamento di paradigma economico. Papa Francesco ha parlato di cambiamento d'epoca e in questo senso gli imprenditori sono gli unici che possono tirarci fuori dalla crisi, sono gli unici che possono traghettare il paese e affrontare le sfide che sono le sfide ambientali, che sono le sfide dell'invecchiamento della popolazione, che sono le sfide alimentari, che sono le sfide di un nuovo modo di lavorare, di un nuovo modo di condurre le imprese stesse, incentrato sulle persone. Ecco Luca, d'accordissimo con te che questa è una risalita e non una ripresa. Possiamo eliminare anche il termine, lo dico anche se poi lo userò di nuovo io, il termine crisi, cioè da un punto di vista della storia dell'economia, le crisi avevano dinamiche completamente diverse, magari di uguale intensità, ma poi recuperavi il punto di partenza e andavi anche sopra da dove eri partito, per cui c'era un recupero abbastanza. Qui, visto che tu parlavi di cambio di paradigma, di insomma, dovrebbe chiamarsi rivoluzione, a caso, chiamiamola anche Maria se vogliamo, ma tutto è tranne che una crisi, perché una crisi si innesta in un modello che poi resta dopo. Sì, si fa un po' di pulizia e poi si riparte. Questo è un cambio strutturale, quindi forse anche il termine crisi che non aiuta gli ascoltatori e l'opinione pubblica. Quando usciremo da questa crisi? Quando finirà questa crisi? Ma se tu hai un cambio di paradigma e un cambio strutturale, non esci mai, non è che torni all'adolescenza se tu dall'adolescenza passi alla maturità. Luca? Il termine crisi deriva da un verbo greco krinein che significa scegliere. Da questo punto di vista crisi significa opportunità, scelta, differenziazione, si sceglie tra l'olio e il grano. Non è sbagliato pensare alla crisi come un momento di cambiamento, appunto. Il problema è che parliamo di momento di cambiamento, qui siamo 8 anni, allora, 8 anni non è più una crisi, è un periodo lungo di faticoso ritorno a una nuova normalità, anzi ritorno è sbagliato, faticosa affermazione di una nuova normalità. E peraltro dentro questo lungo periodo si sono succeduti varie fasi, vari momenti che non sono tutti diciamo con la stessa matrice e che riguardano non tutti gli stessi paesi o le stesse aree. Non è un caso che ancora oggi facciamo fatica a vedere l'uscita dal tunnel, e una delle ragioni per cui anche l'imprenditorialità in questa fase è più debole, non solo nel nostro paese, l'intervista di Robert Schiller, premio Nobel dell'economia domani, lo affermerà in generale per il mondo intero, è dovuto al fatto che si fa fatica a vedere la via d'uscita, si fa fatica a immaginare la ripartenza, ci sono continui shock. Pensiamo banalmente all'Europa, si è passati dalla prima crisi della finanza, poi si è passati alla crisi dei debiti sovrani, poi la crisi dei sistemi bancari, poi i sistemi bancari dovuto a diciamo alle recessioni, allo scoppio di bolle, non alla bolla finanziaria come in America. Si è adesso diciamo immersi in una crisi da terrorismo e una crisi da flusso di immigrazione, solo per far capire diciamo che ne abbiamo continuamente dietro l'angolo. E se guardiamo diciamo al mondo in generale, parliamo della Cina, la sua grande trasformazione, certo. Ecco, quindi diciamo c'è buona ragione per pensare che siamo in un mondo molto incerto, molto complesso, dove non tutto si svolge secondo un ordine prestabilito, il puzzle è ancora da ricomporre. Questo non significa che ci siano anche grandi opportunità, grandi cambiamenti, significano grandi opportunità, le nuove tecnologie sono una grande opportunità, i cambiamenti di costume e di stile vita sono una grande opportunità, lo stesso invecchiamento della popolazione significa mutare il modello di lavoro, mutare il modello dei consumi, e questa è un'altra grande opportunità. E la stessa Cina che cambia se stessa è un'ulteriore opportunità, quindi per gli imprenditori significa sfruttare queste grandi opportunità e andare in quella direzione. Certo che se la crescita continua a essere debole, anche per gli imprenditori diventa più difficile scommettere su queste opportunità. Ecco Luca, un'ultima domanda, perché domani avremo anche l'ospite Pagnoncelli, Nando Pagnoncelli, che presenterà appunto anche il percepito dell'imprenditore, non dell'impresa, visto che voi parlate appunto agli imprenditori, le persone che sono dietro, e il gioco di parole, i geni come genetica, i geni dello sviluppo si intuisce, però arriveranno anche delle indicazioni molto, non dico prosaiche, ma insomma molto più concrete al governo, alle politiche economiche, o volutamente cercherete, non mi piace il termine volare alto, ma cercherete di parlare di altro e non solo delle indicazioni da dare al governo? No, in realtà noi diamo delle indicazioni di politiche, perché notiamo che c'è un affievolimento della imprenditorialità anche nel nostro paese, che rimane un paese di imprenditori nel confronto internazionale. Da ogni qualunque indicatore prendiamo, questo emerge con forza dalla nostra ricerca. Tuttavia appunto la natalità di imprese si è ridotta e diciamo gli stessi imprenditori dicono che fare impresa oggi è molto più difficile. Quindi occorre cambiare che cosa? Alcune politiche possono aiutare, si può aiutare a formare l'imprenditorialità, si può aumentare l'accesso alla finanza d'impresa, che è quella costituita da private equity e venture capital, che sta aumentando ed è una nuova fonte di imprenditorialità. Occorre una maggiore presenza femminile nell'imprenditorialità, perché le donne si sono già sottorappresentate nel mondo del lavoro italiano, lo sono ancora di più nel mondo imprenditoriale italiano. Un'altra importante nuova fonte di imprenditorialità sono gli immigrati, e il problema che abbiamo nel nostro paese è che non riusciamo ad attrarre persone qualificate. Abbiamo in generale l'immigrato medio è uguale all'italiano medio, che non è esattamente la cosa di cui abbiamo bisogno. Quindi ci sono indicazioni di policy in quel senso, ma ci sono indicazioni di policy che riguardano anche Confindustria, il sistema associativo, che può molto anche in questa direzione, perché esiste un distacco, la ricerca di Pagnoncelli dice esattamente questo, tra l'immagine che l'opinione pubblica ha degli imprenditori italiani, che è positiva, ma non così positiva come la realtà è. Quindi c'è un problema di comunicazione forte, e infine c'è quello che gli imprenditori devono fare, perché gli stessi imprenditori, altra indagine fatta da Daniele Marini, affermano che le nuove sfide richiedono un salto culturale imprenditoriale, e non è una percentuale piccola, è più dell'80% che dice questo. E in che cosa? La leadership d'impresa non può essere più fatta da un uomo solo al comando, ma deve essere collegiale, perché le competenze che sono richieste oggi alle imprese sono diverse, le funzioni aziendali rilevanti cambiano, è vero che rimane elevata la cura del cliente, ma per esempio la conoscenza del prodotto e processo È importante, ma non più importante come era prima, e diventa molto più importante la commercializzazione, il brand, certo, il marchio e l'amministrazione dell'impresa stessa. Occorre fare squadra, questo è anche il messaggio che viene. Luca, un'ultima domanda per te, che forse è più difficile, però giustamente ricordi che c'è un percepito dell'imprenditore che è anche colpa, non solo, ma degli imprenditori stessi, cioè ci potrebbe troppo fuori strada, ma molte volte ne abbiamo parlato anche in seno a Confindustria, cioè l'immaginario lo cambi anche tu occupandoti di comunicare cosa fa un imprenditore, se no poi l'immaginario ti viene appiccicato sopra come un, da qualcun altro e come un marchio. Però io non sono mai biografico, ma questa mattina eravamo in un liceo per fare un incontro con gli studenti, e nel notare questa sfiducia di questi ragazzi che sono gli ultimi anni del liceo, una ragazza si è alzata e ha detto: ma sai perché noi siamo così? Perché noi abbiamo capito che c'è una competizione in corso, tu citavi le opportunità che si aprono anche per le imprese, un mercato globale, la rete, internet che dà l'accesso alle fonti anche a persone che prima abitavano in luoghi dove non c'erano accessi alle fonti. Ma questa ragazza ha detto: ma sapete, noi siamo un po' così perché noi non ci sentiamo destinatari di questa guerra dei talenti. Non c'è un paese un po' sfiduciato su questo? Non so se è sfiduciato o non è sfiduciato. Se devo guardare i dati dicono del forte aumento di giovani italiani, anche qualificati, anche preparati, che preferiscono cercare di costruirsi una vita altrove, persino agli antipodi dell'Italia, parlo dell'Australia ovviamente, come succedeva 100 anni fa. Ecco, questo è un segnale forte, un campanello d'allarme rilevante che ci dice non tanto sfiducia o scoramento, quanto impossibilità, che è peggio se vogliamo, di essere coinvolti nella vita lavorativa, di trovare spazi, che non significa che vale per tutti i giovani italiani. Se guardiamo le statistiche sul mercato del lavoro, le assunzioni di giovani sono rilevanti, ma però il problema si pone. Qualcuno ha scritto una volta che non è un paese per giovani, o se preferite è un paese per vecchi. Sicuramente stiamo invecchiando, il problema è che se la merce giovane è rara, non viene però apprezzata quanto la scarsità raccomanderebbe. Grazie, domani ne parleremo ancora più a lungo. Grazie intanto al direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Allora, varie risposte. No, guardate che il tema è che anche gli imprenditori debbano cambiare il modo di fare impresa. Chi non l'ha fatto, e l'ha detto in maniera molto chiara Luca Paolazzi, va bene il controllo del processo del prodotto, ma soprattutto della rete commerciale che deve venderlo nei mercati, a maggior ragione se i mercati sono distanti, la commercializzazione, il marketing, l'uso che fai della rete. Cioè, io sento ancora dire qualche imprenditore: no, ma io non mi occupo di IT perché non è il mio settore, che come fino all'800 aveva detto: no, io non mi occupo di elettricità perché non è il mio settore. Allora, l'IT non è un settore, per alcuni lo è, ma l'information technology è orizzontale a qualunque settore. E ancora, lo diceva prima Paolazzi, anche l'uomo solo al comando non funziona più, l'imprenditore che mette il suo nome e cognome ed è lui, ma non funziona in un mondo così complesso. Lo capiscono anche gli imprenditori più anziani, lo capiscono i loro figli se sono cresciuti col modello del papà, e iniziamo di nuovo a ragionare anche sul passaggio generazionale in impresa, eh? Non è detto che per forza dal padre al figlio si lavora in team, ma non lo diciamo noi, lo dicono tutti i rapporti che vediamo. Poi sul fatto che il paese sia sfiduciato, non è che scopra adesso che il paese è sfiduciato. Ho detto semplicemente che a mio avviso stiamo trasmettendo ai giovani, noi come genitori, un eccesso di pessimismo sulle loro possibilità. È una proiezione, siccome tu ti senti che appartieni a un altro mondo e non sei così al passo coi tempi e vivevi in un mercato più protetto, in un mercato del lavoro più protetto, in un sistema economico più protetto fino a 20 anni fa, trasmetti questa tua sfiducia nelle tue qualità anche ai tuoi figli, che invece non hanno bisogno perché sono più svegli, hanno possibilità di accesso, possono fare quello che voglio, devono crederci, un po' di passione, tanta passione, e un po' di sacrificio, che vuol dire rendere sacro ciò che fai. Ma qui andiamo verso la sociologia, quindi mi blocco subito. apprezzo il messaggio, visto che parliamo oggi di PIL e di fibra, tira più un PIL di fibra che un carro di buoi. Andiamo al meteo. Focus Economia. A 7:44 minuti. Allora, adesso vorrei parlare di borsa, male oggi la giornata, e della riforma delle banche, o meglio il decreto votato ieri in Senato. Vedo molti messaggi sul tema della sfiducia. No, guardate, con tutti distingo, perché è chiaro, però io ho la sensazione che sia colpa anche dei genitori o degli adulti, per dire così, se viene trasmessa questo eccesso di pessimismo ai figli. Cioè, siccome noi abbiamo vissuto l'età dell'oro, quella diciamo pre-2008 e anche pre-2001, se parliamo della Cina nel WTO, ho la sensazione che questo, il paese fa schifo, questo non è un paese per giovani, e tu trasmetti a sti ragazzi che oggi ci dicevano: ma noi abbiamo la sensazione che la guerra dei talenti non ci riguardi, perché non credono di avere un talento. Allora facciamoci anche qualche domanda noi, così come se la devono fare gli imprenditori, i capi azienda, quelli che non mollano mai, quelli che fanno finta di fare i presidenti e poi sono sempre lì a gestire l'impresa, che però ci ha messo il figlio. Allora, se metti il figlio te ne vai tu, se no prendi un manager e te ne vai tu, a un certo momento molla il colpo nella vita, no? Vai a fare qualcos'altro. Il golf è uno sport bellissimo, non è che si può stare sempre in azienda se non cogli più i mutamenti. E se tuo figlio non è in grado di stare in azienda, mettici qualcun altro. Allo stesso modo, scusatemi se mi accendo, ma anche nei confronti delle nuove generazioni, ripeto, che siano figli, nipoti, cugini, non mi interessa, continuare a ricordare come si stava meglio prima, come si... è vero, c'era un mondo meno competitivo, però ricordiamoci anche che cosa offre a sti ragazzi l'accesso a internet. Non è mai successo nella storia che uno potesse accedere da Matera, visto che va di moda parlare della Basilicata, ad Hong Kong, allo stesso tipo di fonti, se hai sta benedetta banda larga o fibra o connessione. Ci sono anche dei vantaggi, puoi volare per 2 lire in tutta Europa con low cost, non si poteva fare 20 anni fa. Cioè, non trasmettiamo sempre una memoria, ai nostri tempi era tutto più bello e più facile, poi ti chiedi perché no, stanno a farsi le canne guardando la parete, perché tu non gli hai detto semplicemente che non sono in grado di reggere la competizione. In realtà sei tu che non sei in grado di reggere la competizione, e trasferisci questa tua frustrazione e pochezza ai tuoi figli o ai più giovani. Basta. Serafini, Laura Serafini, voglio Laura Serafini che è in collegamento con noi per parlare del decreto bancario, così cambiamo radicalmente tema. Laura, buonasera. Buonasera, buonasera, ti stavo seguendo. Hai figli, Laura? Adesso non voglio farmi i fatti tuoi, ma... Assolutamente sì. Ecco, quindi non trasferire sui figli le sconfitte, non tue, insomma, ma le sconfitte che può aver vissuto la nostra generazione, mi sembrerebbe... sbagliate, lasciate che se la giochino e che vadano all'estero, sta cosa per cui ogni volta le mamme mi è andato a lavorare in America, meno male che non viene a mangiare tutti i giorni a pranzo, neanche tutte le mamme italiane fossero dei piccoli Carlo Cracco. Però vorrei parlare di banche, per favore, se no andiamo fuori tema. Ti chiedo ancora un minuto di pazienza, che così do il traffico e facciamo un unico ragionamento. Focus Economia. Adesso c'ho tutti i genitori che ce l'hanno con me, lasci stare i genitori, te la prendi con i genitori, se vuoi dar fiducia ai giovani puoi iniziare lei, Barigioni, col cambiare mestiere. Ecco, vabbè, questa la posso, questa l'accetto. Laura Serafini, che cosa è cambiato? Io devo purtroppo precipitare sul tema alla notizia. Che cosa è cambiato col decreto, il decreto banche ieri approvato anche al Senato, quindi è diventato legge, l'obiettivo è favorire l'aggregazione nel mondo delle banche di credito cooperativo, consentendo comunque una via d'uscita. Allora, partiamo dalle modifiche sulla cosiddetta via d'uscita, Laura. Allora, innanzitutto stiamo parlando della riforma delle banche di credito cooperativo, quindi come è noto si tratta di banche di piccole dimensioni molto radicate sul territorio, che hanno comunque una finalità mutualistica e non a scopo di lucro della loro attività, e questo le rende una categoria che finora è stata un po' a parte nel mondo del credito e finora era stata lasciata, diciamo, in questa situazione di parcellizzazione che oggi non è più sostenibile, perché sappiamo che il mondo, credo, sta cambiando, sta diventando molto competitivo, è molto importante essere solidi, essere grandi, essere, diciamo, uniti per poter resistere diciamo, nella competizione sul mercato. Questo tema della way out, se vogliamo, della via di uscita, è diventato molto importante, ma in fondo è un problema marginale rispetto al senso della riforma, perché essendo appunto un mondo molto parcellizzato, molto legato al territorio, molto molto autonomo, quello che si è voluto fare è evitare di imporre, quindi diciamo in qualche modo violare una libertà costituzionale a tutte queste banche, l'adesione a un grande gruppo. Quindi la way out è un sistema per consentire a chi non vuole aderire di poter fare istanza entro 2 mesi dall'entrata in vigore di questa nuova legge alla Banca d'Italia. E cosa sarebbe accaduto fino a ieri se una banca di credito cooperativo avesse fatto questa istanza? Avrebbe dovuto trasformarsi in una società per azioni e devolvere tutte le riserve, quindi tutto il patrimonio, certo, che era stato accumulato in esenzione imposta. Oggi questo può non accadere più. Le attività bancarie verranno conferite in una SPA, questa SPA dovrà essere comunque controllata dalle cooperative che conferiscono questi asset e dovrà essere pagata un importo pari al 20% del patrimonio netto della banca che fa questo tipo di scelta, ed è una banca che deve avere un patrimonio comunque, certo, superiore a 200 milioni. E questo va a regolare un caso particolare di una riforma che invece ha sicuramente gli obiettivi molto più ampi e molto più, diciamo, sistemici. Ecco, Laura, tu da sempre segui il mondo bancario, non solo per la riforma, però al di là della riforma che era attesa, poi ci sono state queste modifiche che riguardano soprattutto i soci delle BCC. Però oggi stiamo per commentare, appena finito il tuo intervento, un'altra giornata di passione per i titoli bancari. Adesso vedo la chiusura: Monte dei Paschi meno 8,1, Banco Popolare meno 7,5, UbiBanca meno 6,30, Unicredit meno 5,90, Pop Emilia Romagna meno 5,90, Mediobanca meno 5, Pop Milano meno 4. E devo dire che una delle migliori è Intesa San Paolo, che ha perso solo il 3,31%. Qua, nonostante, è vero che la legge riguardava le BCC, così, ma insomma, nonostante tutti anche i progressi fatti sugli incontri sulla cassa, per la cassa dei depositi e prestiti a garanzia delle sofferenze, a me sembra che, non è che sembra, è un dato di fatto, il mercato è pesantemente negativo su tutti i titoli bancari italiani. Ahimè, purtroppo il mercato vede molto bene quello che succede in questo paese. Io vorrei solo, così nel mio piccolo, ricordare che dentro questo decreto sono state varate anche delle misure per rendere meno onerosa la vendita delle sofferenze bancarie che pesano sui bilanci delle banche, che sono uno dei temi della loro debolezza. E questo meccanismo, che praticamente è un veicolo che può avere una garanzia pubblica, e questo è il motivo per cui potrebbe essere meno diciamo oneroso, quindi si può spuntare un prezzo più alto per queste sofferenze, già ancora prima che parta questa riforma, quindi che entri in vigore questa legge, viene già bollato come quasi inefficace, non solo perché, insomma, si è ampiamente detto che forse servirà poco, forse servirà solo agli istituti un pochino più piccoli, ma nello stesso giorno in cui si vota questa cosa al Senato, il governo fa una riunione, chiama a sé le banche, la Banca d'Italia, e dice: dobbiamo fare altre misure, non solo per aiutare degli aumenti di capitale che rischiano di non andare in porto nelle banche, ma anche per fare cose aggiuntive su queste sofferenze. In qualche modo ti dice: ciò che abbiamo fatto finora, ahimè, forse non è abbastanza. E quindi il mercato non può che trarre delle conclusioni logiche a quello che è un percorso che è sotto gli occhi di tutti. Poi magari questi strumenti, che purtroppo a oggi nessuno di noi sa esattamente come funzioneranno, questi nuovi di cui si è parlato nella riunione a Palazzo Chigi, quando entreranno in vigore saranno meravigliosi, però oggi il mercato dice: avete appena approvato una legge che, prima ancora di dare effetti, mi state dicendo voi stessi che è poco efficace, quindi penso che sia. Poi ovviamente i motivi, diciamo, sì, ma qui guarda, insomma, tu hai ragione, insomma, il tema è molto semplice. Qua gli operatori fanno due calcoli, dicono: vabbè, tanto queste garanzie sono solo sulla parte migliore, qua tutte le banche dovranno svalutare i loro bilanci, e su questo poi si apre la prateria delle ipotesi. Grazie anche alla collega e mamma Laura Serafini. Ma sei d'accordo o no che trasmettiamo noi delle volte le nostre frustrazioni? Non te l'ho chiesto, Laura. Vabbè, ma dai, questo è inevitabile, no? Cioè, viviamo in un periodo in cui tutto è molto complesso e difficile, quindi è difficile mantenere l'ottimismo, però io sono d'accordo con te che bisogna cioè, insomma, lasciate stare i figli. No, ma generazioni prima delle nostre che hanno vissuto le guerre, hanno vissuto momenti sicuramente molto più difficili, bisogna sempre essere presenti a se stessi e reagire sempre, comunque e in qualsiasi situazione, quindi da questo punto di vista condivido. Grazie anche alla mamma Laura Serafini. Grazie a te. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Hai ricevuto una telefonata dal pupazzo, che immagino sia Renzi, per elargire tanto entusiasmo. Ti auguro di finire in miseria tu e la tua famiglia, buffone. Grazie, vedo che hai preso bene il ragionamento sul trasmettere, diciamo, un po' più di ottimismo ai figli. Spero che non parli così con i suoi figli. Però dai, c'è il GR24, poi magari un commento lo facciamo. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di banda larga, intesa come l'intervento del governo oggi, l'accordo con l'Enel. Prima però il commento di borsa, dicevamo meno 2,45%, abbiamo già detto, insomma, dei titoli bancari anche oggi, insomma, il mercato continua a essere pesantemente negativo perché ritiene che, insomma, il tema delle sofferenze, della cartolarizzazione, della cessione delle sofferenze bancarie sia tutt'altro che chiaro, tutt'altro che risolto. Ciao Condina, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Noi siamo la peggiore tra le borse perché l'indice di Milano è molto condizionato dal peso dei titoli bancari. Francoforte infatti perde l'1%, Parigi lo 0,90%, Londra lo 0,40%. Devo dire che ma Unicredit, che perde nettamente più della pari grado, diciamo così, Intesa San Paolo, non sarà per l'operazione sulla Pop Vicenza, per la garanzia sulla Pop Vicenza, chiedo? Beh, in parte sicuramente anche per quello, meno 5. Quasi il 6%. Infatti. Ecco, ma c'è qualche altro motivo, al di là del ragionamento che stiamo commentando da settimane, oggi sui bancari o no? O proseguiamo oltre? No, direi di no, direi che ci sono queste forti tensioni legate agli aumenti di capitale che citavi, insomma, di Popolare di Vicenza e Veneto Banca che arriveranno. Poi non dimentichiamoci che c'è anche l'aumento di capitale del Banco Popolare che arriverà nei prossimi mesi. C'è comunque una situazione generale di tensione su questo comparto, è ovvio che i titoli in borsa ne risentono. MPS, giusto per ricordare un titolo, oggi ha perso l'8% e ha toccato i nuovi minimi storici. Ancora, per quello che riguarda gli indici, li ho appena dati, Milano ha fatto meno 2,45%. Oggi il petrolio di nuovo in calo, vediamo anche Saipem soffrire meno 4%, ha toccato 30 centesimi per azione, è il minimo storico per Saipem? Praticamente sì, il minimo è 0,31, che era stato toccato durante l'aumento di capitale, quando c'erano poi forti incertezze sulla sottoscrizione dell'aumento. Adesso l'aumento è stato concluso, sono entrati in cassa 3,5 miliardi, il debito è stato rifinanziato, ma il titolo è ancora nei bassi fondi, quindi evidentemente c'è ancora molto scetticismo da parte del mercato. ST Microelectronics invece ha diffuso i conti sui primi tre mesi, l'utile operativo migliora del 10% e c'è anche il buon andamento delle vendite del Galaxy S7, quindi Samsung, la cui tecnologia fornisce ST Microelectronics, più 4,31%. È la migliore, oggi è praticamente uno dei pochissimi titoli a brillare, forse l'unico, perché poi gli altri sono soltanto rialzi frazionali. ST è un fornitore di Samsung, e quindi ovviamente beneficia delle vendite record dell'S7, ma anche delle vendite di altri microcontrollori in Cina, vendite che sono andate molto bene, hanno toccato il miliardo di unità. Ancora per quello che riguarda altri titoli, A2A più 0,80, visto che uno dei pochi 0,70, uno dei pochi titoli già ieri positivi. Era stata la migliore dopo i conti di bilancio, che vabbè, ricordiamola, hanno un calo dell'indebitamento sopra le previsioni e poi hanno anche un MOL leggermente sopra le stime del management. Ancora tra i titoli non bancari che hanno perso di nuovo Telecom Italia, ma oggi meno 2,80%, Exor meno 2,90%, Finecobank meno 3%, Prismian meno 3,70%, Yux Net-a-Porter meno 3,70%, come Mediaset, Fiat meno 4%. Però c'è, al di là del tema bancario, oggi praticamente tra i settori non si è salvato quasi nulla. Praticamente nessuno, anche il settore dell'auto, che questo è stato sì debole in tutta Europa, diciamo che FCA poi ha chiuso in forte ribasso del 3,9%, in questo caso al di là poi dell'andamento del settore nel vecchio continente pesa la frenata del mercato brasiliano che a marzo ha perso un altro 20%, per FCA il calo è stato di quasi il 30%. Migliori e peggiori in assoluto: Banco Desio Brianza più 7,5%, Bastoggi più 6,30%, CSM Agam più 5,70%, Clabo più 5% e poi Danieli più 3,60%. Peggiore in assoluto, beh, è il Monte dei Paschi, meno di tutto il listino, è meno 8%, e poi Banco Popolare, appunto, il Banco di Sardegna sulle risparmie meno 7%, Astaldi meno 6,70%. Percento, Beghelli meno 6%. Grazie anche a Ceo Condina, Radio Corriere sulle 24 ore. Allora, no, non possiamo continuare sul tema del... Guardate che era un inciso nel ragionamento che faceva Luca Paolazzi sui temi che domani verranno presentati nella due giorni del Centro Studi Confindustria. Ho solo detto che, ripeto, che a mio avviso continuare a raccontare di un'età dell'oro, a parte il fatto che l'età dell'oro per chi ha la mia età ha significato anche poi l'esplosione di Tangentopoli, diciamo un sistema bloccato in tutti i lacci e lacciuoli, perché non è che questa Italia degli anni 90, degli anni 80, certo che l'economia andava meglio, certo che c'è un mercato più chiuso, non c'è la concorrenza globale, alcuni scrivono non c'era l'euro, però continuare a dire questo, cosa aiuta i vostri figli o le nuove generazioni? Mostrategli anche le opportunità che si aprono in questo mondo globalizzato, per cui tutti siamo in concorrenza con tutti, ci mancherebbe. No, ma non è che uno smette a questo punto di credere. Poi ho capito benissimo che se il genitore, mi scrivono alcuni genitori disoccupati che hanno perso lavoro, che tipo di ottimismo vuole che io trasmetta. Ha ragione, non stiamo sottovalutando situazioni del genere, stiamo solo dicendo che delle volte ci piangiamo non i casi veri, ma alcuni si piangono un po' troppo addosso, e a mio avviso c'è questa di sentirsi non adeguati alla sfida che ci aspetta. Ma perché? Siamo forse minus habens? Questo paese ha mille difetti ma anche mille pregi, la nostra scuola ha mille difetti ma è anche una scuola che forma come cultura di base in molti casi. Su, comunque ne parleremo in un'altra puntata quando avremo occasione. Adesso vorrei parlare di banda larga, visto che abbiamo detto prima è un momento storicamente unico per i giovani, perché mai era successo nella storia dell'umanità che venisse annullato quasi di fatto il senso del luogo, ossia che tu potessi avere gli stessi accessi alle informazioni, sia che tu abiti in un paesino di una regione sperduta che tu stia a Hong Kong, a Londra, a New York. Per cui c'è un'opportunità unica, a patto che tu abbia l'accesso, perché se no ti becchi solo la sfiga della globalizzazione e nessun vantaggio dell'information technology. Ecco perché l'investimento infrastrutturale nella banda larga è un investimento tanto importante quanto l'infrastruttura di trasporto, per intenderci. Oggi ne ha parlato il premier Matteo Renzi, ha presentato il piano dell'Enel, Enel Open Fiber, per la posa in fibra ottica che dovrebbe raggiungere 224 città, 7 milioni e mezzo di abitazioni, 2 miliardi e mezzo l'investimento. Sentiamo su questo Renzi. 5 ottimi amministratori che stanno svolgendo il loro servizio alle loro città e che rappresentano oggi i territori che per primi usufruiranno e godranno del progetto che Enel insieme ad alcune importantissime realtà private che saluto e che sono qui presenti andranno a inaugurare per un totale di 224 città, se non vado errato, nei tempi e nei modi che l'amministratore delegato di Enel vorrà illustrare, saranno in altre città. Il tema è banda larga ovunque. L'Italia ha come obiettivi da qui al 2020 di coprire tutto 100% a 30 Mbps, mentre l'obiettivo è quello di arrivare a una metà, al 50% di abbonamenti che arrivino non a 30 mega ma a 100. Quindi l'obiettivo alto è quello di arrivare a coprire tutti a 30 e la metà a 50. Allora, e poi il 29 per i 30 anni di internet abbiamo organizzato un grande evento su Pisa, partiranno le prime gare per i cluster C e D, dove gli operatori faranno la gara e vinca il migliore, sempre Renzi su questo, che ha detto comunque adesso presentiamo questa iniziativa ma siamo pronti a presentarne altre con altri soggetti che abbiano le stesse caratteristiche che ha l'Enel. E quindi il 29 aprile via alle gare, e c'è già un fondo di quasi 5 miliardi del CIP, 3 miliardi e mezzo già stanziati, di cui 2,2 a dare, che non sono di interesse di mercato, dove non si fa concorrenza, dove non ci sono margini. Sappiamo che il tema è che lì deve intervenire lo Stato, perché nessun operatore privato si metterà a collegare villaggi, paesini o addirittura casali remoti, non rientrerà mai nell'investimento. Però sentiamo Renzi sia sul 29 aprile che sul fondo. In questa strategia le aree, che noi definiamo con linguaggio burocratico A e B, sono aree in cui il mercato la fa da padrona. E quindi i singoli operatori possono intervenire. Quella che noi oggi presentiamo è un'iniziativa di Enel con dei partner privati tecnologici che va in queste città. È evidente che credo si parta proprio da Perugia e credo che i primi abbonamenti a Perugia saranno pronti già a maggio. Il 29 aprile abbiamo organizzato un grande evento per ricordare i 30 anni di internet, abbiamo deciso di farlo centrato su Pisa, anche perché Pisa oggettivamente è una delle città più all'avanguardia nel mondo per tecnologia, ed è quello stesso giorno dovranno invece uscire le prime gare per i cluster C e D, dove gli operatori privati più presenti con tutti gli altri faranno la gara e vinca il migliore. C'è un fondo dello Stato per la banda ultralarga che ha 4,9 miliardi di risorse previste dalla delibera CIPE, 3,5 sono già stanziati e 2,2 sono già andati alle cosiddette aree bianche, cioè all'area a non interesse di mercato, i cosiddetti cluster C e D. E abbiamo messo finalmente un percorso di semplificazione burocratica, di obbligo di predisposizione per la fibra delle nuove abitazioni, di attenzione alle tecnologie alternative, di mini trincee, scavi a basso impatto, per consentire di accelerare questa possibilità. Allora, vedo che molti sono scettici sul fatto che possa esserci si possa raggiungere anche i luoghi meno concorrenziali. Insomma, Renzi ha chiarito 2 miliardi e 200 milioni già stanziati ad aree che non sono di interesse di mercato. È chiaro che non porti la fibra lì, ma basterebbe arrivare a una velocità accettabile per navigare in maniera accettabile sulla rete. Comunque, dopo il traffico, sentiamo anche, perché l'incontro era tra Enel, da una parte, come con lei che metterà la fibra, e gli operatori, nel caso specifico Vodafone e Wind. E ascolteremo anche le reazioni e ne parleremo con Alessandro Longo del Sole 24 Ore. Traffico. Focus Economia. Stiamo parlando con Metro, Metro anzi sta parlando con noi. Chiaramente quello che stiamo proponendo è una grande Metro, adesso esagerando, stiamo facendo quello che più o meno Metro ha fatto a Milano su scala nazionale, quindi ha senso che Metrob sia interessata a questo progetto? Sì, niente di più di questo. Penso che Metrob stia parlando un po' con tutti gli operatori, quindi tra cui anche noi. Il primo batch sono 10 grandi città, le altre 5 che seguiranno sono Firenze, Genova, Napoli, Padova e Palermo. Il rollout avverrà anche questo a partire dall'autunno di quest'anno. Un secondo giro di 40 città susseguirà e poi a completamento le 224. Allora, così Francesco Starace, che poi ha anche chiarito che il numero uno dell'Enel, ha chiarito che ci sono vari fondi interessati a entrare in Enel Open Fiber e che sarà possibile una partnership, un accordo con Acea a Roma, che appunto avete sentito sta trattando anche con Metroweb. Le prime cinque città, qualcuno mi scrive dal sud, noi del sud nulla, no, le prime cinque città sono Catania, Cagliari, Perugia, Bari e Venezia. Per la banda larga, poi arriveranno Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Padova e poi le altre 40 a cui facevo riferimento Starace. L'accordo che già Vodafone Italia ha stretto con Enel Open Fiber prevede la migrazione di due clienti Vodafone della rete fissa sulla rete, lo ha chiarito il numero uno in questo caso di Vodafone Italia, al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos. Sentiamo allora Aldo Bisio. Io non credo che ci sarà una dinamica importante sui prezzi, perché questa non è tanto guidata dai costi, che dovrebbero leggermente migliorare, ma verrà guidata moltissimo invece dalla qualità del servizio. Qua passiamo da i megabit ai gigabit, quindi passiamo da una società megabit, che nella società digitale la M sta per medievale, a gigabit, che invece vuol dire crescita, growth in inglese. E questo perché è un fattore di competitività, quindi con i megabit non si va più avanti. E anche Wind era presente oggi, appunto l'accordo. Massimo Ibarra, numero uno di Wind, ha commentato il progetto, costituisce una grande opportunità, grazie a una tecnologia a prova di futuro, grazie alla tecnologia Fiber to the Home, che porterà per queste città la fibra ottica dentro le case degli italiani. La situazione non è ideale dal punto di vista del punto di partenza, ma grazie a questo progetto, questa rete nazionale che sta partendo, questa grande partnership strategica, secondo me la situazione sarà molto molto più rosea nel prossimo futuro. Il piano di sviluppo della banda ultralarga nella partnership con Enel è nel molto accelerato. Ma inizialmente era il 2018. Poi sì, vuol dire, adesso l'importante come sempre è partire. Nel momento in cui si parte, poi l'accelerazione viene da sé. Noi ci abbiamo creduto, ci crediamo, penso che sia un progetto appunto di rilevanza nazionale strategica come non c'è mai stato in Italia fino ad oggi. Il Presidente del Consiglio ha fatto molte battute su chi blocca e chi sblocca, in questo senso secondo lei ci possono essere all'orizzonte degli impedimenti, amministratori locali che si oppongono o no, altre entità amministrative? Come dicevo prima, essendo un interesse appunto nazionale, stiamo costruendo un'autostrada a prova di futuro perché tecnologia Fiber to the Home, non credo che nessuno abbia mai intenzioni o l'idea di poter bloccare un progetto di questa fattispecie. Allora, Alessandro Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, tutto bene, nel senso che questo è il progetto che il Premier aveva già annunciato, l'Enel è quella, diciamo, che utilizzerà, insomma, le sue canaline, la spiego male, le sue infrastrutture e poi gli operatori che fanno gli accordi. C'è però un convitato di pietra, c'è un grande assente, che è Telecom Italia. Sì, effettivamente bisogna chiarire alcune cose. Telecom Italia al momento non ha fatto nessun accordo con Enel, potrebbe ancora succedere, e sta andando avanti per conto proprio già da un po'. Al momento Telecom copre quasi il 50% della popolazione con fibra, però una fibra meno ricca della fibra che vorrebbe mettere Enel, cioè una fibra che arriva al momento a 30-100 megabit, laddove invece quella che Enel vuole portare fin dentro le case può assicurare anche alcuni gigabit al secondo, come è stato detto. Inoltre Telecom va avanti anche con un piano simile a quello di Enel, però dagli annunci un po' più ridotto, cioè 100 città al 2018 contro le 250 che Enel vorrebbe fare. Quindi insomma sono due piani che al momento vanno in parallelo. Sì, sono due piani diversi, anche perché appunto, come tu ricordavi, Telecom ha sempre detto non c'è bisogno, adesso la dico male, insomma, di tutta quella potenza e di quell'investimento, basta il sistema che noi offriamo. Però ammetterai che è un po' strano avere due progetti, uno che ha visto la regia del governo, quindi di Renzi, e l'adesione di Enel, Vodafone, sì, Wind. Sta creando una situazione un po' particolare, in cui effettivamente Enel, con l'adesione, come hai detto tu, effettivamente di Vodafone e Wind, che poi faranno le offerte, no? Che Enel, Wind e Vodafone non fanno la rete di Enel, ma fanno solo le offerte su quella rete, quindi la prendono in affitto, diciamo così, banalmente, e poi noi possiamo comprare la banda ultralarga di Vodafone e di Wind che va sulla rete di Enel. Sì, è un po' particolare la situazione in cui si è creata perché abbiamo un governo. Ma scusa, ma non si rischia banalmente di sprecare il socio, di fare operazioni analoghe e andare a fare due investimenti invece che uno, chiedo? Ma il rischio, questo rischio c'è sempre quando non ci sono piani coordinati, quello vero? Però allora, sicuramente per quanto riguarda la fibra fino alle case è impensabile che avremo due reti separate, perché insomma nelle case, nei palazzi ci può entrare una sola fibra, quindi è impensabile pensare di avere Enel e Telecom che cablano lo stesso palazzo. Questo non succederà, si divideranno i palazzi, mentre finora c'è stata una sovrapposizione per le reti in fibra più elementari, cioè la fibra che arriva fino alla strada, è l'ultimo tratto in rame. Ci sono alcuni palazzi che sono coperti con questa tecnologia sia da TIM, sia da Vodafone, sia da Fastweb, che pure è un altro piano. Io ne conto 5-6 piani banda ultralarga al momento in azione in Italia, perché ognuno di questi operatori, a parte fare accordi con Enel e con Metroweb in precedenza, hanno anche loro piani. Fastweb ha appena annunciato che potenzierà il proprio piano e al 2020 arriverà a promettere addirittura 500 megabit. Vodafone comunque continua, insomma. No, ma hanno ragione gli ascoltatori, adesso io devo chiudere, hanno ragione gli ascoltatori nel dire che il metodo Telecom costa meno, però nel breve termine, ma nel lungo termine rischia di essere, di diventare subito vecchio, cioè essendo meno potente. Comunque torneremo anche su questo tema. Grazie anche a te, da Sebastiano Berlusconi, quindi grazie Alessandro Longo. Da Sebastiano Berlusconi l'auguro di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi in diretta da Parma. Radio 24. La passione si sente.